Vi presentiamo ora Eclettica. Le trasmissioni proseguono ora a diffusione regionale. Spettacolo di cartoni animati. Just try. È iniziata la seconda parte del volume numero 5 di Eclettica, quello che è l'ultimo della settimana in compagnia di Giulio Caperdoni. Seconda parte che si è aperta con Sunset, dopo che la prima si era chiusa con in sequenza These United States e poi Soundpool. Sunset, formazione che proviene da Austin in Texas e che ha deciso di far precedere e seguire il proprio nome da tre parentesi graffe aperte prima e tre parentesi graffe chiuse dopo. Sunset che ci siamo ascoltati con Man's Heart Complaint. Ed ora Cassettes Won't Listen, Paper Float, canzone che quando è uscita qualche mese fa abbiamo avuto modo di trasmettere più volte all'interno di Eclettica. Ecco, da allora ad oggi ne sono uscite una versione, più di una versione, n versioni diverse in remix. Nell'ultima settimana me ne sono arrivate ben due e di queste due versioni ho dovuto veramente fare il lancio della monetina perché mi sembravano entrambe molto belle per decidere quale trasmettere, quindi mi tengo l'altra pronta per un uso futuro. L'altra, quella che non ci ascoltiamo, è la versione remix di Blockhead, che è un artista della Ninja Tune. Invece noi ci ascoltiamo Paper Float rifatta da parte di Scott Thoreau, che è un artista di Brooklyn, un artista hip hop di Brooklyn. Nella playlist però troverete questo pezzo a nome Cassette Won't Listen. Where are your badges? Badges? We ain't got no badges. We don't need no badges. I don't have to show you any stinking badges. Me lo portarono a casa un mattino di giugno, spolpato e smembrato a colpi di scure, come un maiale. Neanche una goccia di sangue gli era rimasta. Due lados che ad appezzarli non sarebbe bastato un gomitolo di spago nero, di quello catramoso che i calzolai usano per le tomaie dei cosinzos di vacchetta. Il cane girava intorno al nespolo e ringhiava, impazzito dalla paura. Lo stesi sul tavolo di granito del cortile, quello che usavamo per le feste grandi, e lo lavai col getto della pompa. Le pispiriste incollate, grumi scuri nel concale, terra e paglia nelle costole, nella vrissura, mosche verdi dappertutto. Maledetti, maledetti sono quelli che gli hanno squarciato il petto per strappargli il cuore con le mani e prenderlo a calci come una palla di stracci. Questo era l'incipit della Vedova Scalza di Salvatore Niffoi. Ciao Giulio, ciao Eclettica, ciao Rock FM. Ancora per poco, poi ognuno di noi per la propria strada, voi senza la vostra radio, noi ascoltatori con un profondo disagio di chi per anni e anni vi ha seguito tutti i giorni e tutte le ore. È stato bello seguirvi. Ogni trasmissione era un contatto non solo con la musica, ma con persone libere, sganciate dalla logica di fare musica solo per fini commerciali. È triste vedere come voi siate stati piegati dalla logica del profitto. La regola numero uno di questo mondo che non guarda in faccia nessuno. Ho detto piegati, perché chi crede in qualcosa come voi e noi non si spezza a questa logica. ci rimarrà un buon ricordo di gente intelligente, colta, preparata, appassionata di fare qualcosa di diverso. In poche parole, Rock FM, che vivrà nei nostri cuori come una radio, unica e come tutte le cose uniche destinate a finire. Ciao, da Marco e Momi, 56 anni ciascuno. Queste sono le ultime parole della settimana, ce ne saranno altre di parole di chi scrive a Giulia tra radiorockfm.com oppure su myspace.com/eclettica o agli altri indirizzi della radio, al numero dell'SMS o sui vari blog in giro per la rete o anche su nuovi siti che potranno sorgere legati a questa situazione. Per quanto riguarda la musica che vi siete ascoltati, si è appena chiusa The Sea Has Spoken da parte degli inglesi Misophone, prima ancora gli italiani Damien con Ben Buring, e si chiude a tutti gli effetti con due brani in sequenza. L'ultimo ve lo sentirete citare nell'indice finale della trasmissione. Il prossimo è una novità, We Were the States, quartetto statunitense che ci porta con la sua carica Up Your Sleeve, estratto dall'album che esce proprio in questi giorni negli Stati Uniti per l'etichetta di nome Chicken Ranch e album intitolato Believe the Thieves. E prima dell'ultimo pezzo vi preannuncio che sentirete anche la voce di Lorraine Bacall. No, you don't have to act with me, Steve. You don't have to say anything and you don't have to do anything. Not a thing. Oh, maybe just whistle. You know how to whistle, don't you, Steve? You just put your lips together and blow. Eclettica, ultima stagione, settimana numero 22, volume numero 5, indice, Get Well Soon, Megaphone, Jaguar Love, These United States, Soundpool, Sunset, Cassette Won't Listen, Damien, Misophone, We Were the States, Port O'Brien. Cari amici, il vostro programma è terminato. Vi diamo appuntamento a domani alla stessa ora. Cari amici, il vostro programma è terminato. Arrivederci.